petto, rosso di fuoco dalle domande che fanno eco, portando il vuoto di immagini di luce, cancellando ogni cicatrice. Vedo il mio viso rotto, rosso di fuoco dalle domande che fanno eco, portando il vuoto di immagini di luce, cancellando ogni cicatrice. Faccio gara con i miei fantasmi, eclissi loro enigmi, faccio salto da isolarmi, armi a salve sono i miei sogni, diventano solo parole simili a cigni. Ore agili tornano a planare, soffitti dei ricordi portati dal mare, suonano porti il loro calore, mentre i miei sogni sono qui come nuvole, agile pensiero, liquido in dono, piovono dal cielo come frastuono, cadono e rimangono solo a ricordare momenti quando stavo con mio fra ricordando te, loro parlavano di un'altra lei e io di quanto fanno male, soffio nei ricordi rotti dal tempo, stagno sofferto del sogno, tempo mutabile, il dolore sempre lì a ricordare le ore, il dolore di mille fratelli, tutti quei duri e impenetrabili coltelli che portiamo dentro come camminando in strade sempre più difficili contro il comando duro davanti, mentre sventogliamo bandiere sempre più fragili, momenti quando vedo il mio viso rotto, rosso di fuoco dalle domande che fanno eco, portando il vuoto di immagini di luce, cancellando ogni cicatrice. Vedo il mio viso rotto, rosso di fuoco dalle domande che fanno eco, portando il vuoto di immagini di luce, cancellando ogni cicatrice. I tuoi occhi scrutano i miei echi, scuotono davanti vecchi dolori, modificano sapore e colori di sere sempre meno nere, strofinano bagliori e ricordi che scacciano il silenzio, sordi passi in lontananza, notte della tua assenza, piangono e chi del cuore, distanze giungono nelle ore, più vere sarà il loro sapore, il ritorno al sole, il mio ritorno al sole, il mio ritorno al sole. Momenti quando stavo con i miei fra ricordando te, loro parlavano di un'altra lei e io di quanto fanno male, soffiando i ricordi rotti del tempo, stagno sofferto del sogno, tempo immutabile del dolore, sempre lì ad agire, a ricordare le ore, il dolore di mille fratelli, tutti quei duri e impenetrabili coltelli che portiamo dentro, camminando in strade sempre più difficili contro il comando duro davanti, sempre spaventolando bandiere più fragili, momenti quando. Vedo il mio viso rotto, rosso di fuoco dalle domande che fanno eco, portando il vuoto di immagini di luce, cancellando ogni cicatrice. Vedo il mio viso rotto, rosso di fuoco dalle domande che fanno eco, portando il vuoto di immagini di luce, cancellando ogni cicatrice.